Mi scappa. Non ce la faccio più. Ecco, i soldi, prendi i soldi. Jamal, dai, fai presto. Gliene scappa uno grande. Non l'ho fatta ancora tutta. Smettila coi giochetti, non ce la faccio più. Non vuole uscire. E da quando c'è un limite di tempo per fare la cacca? Non ce la faccio più, ti ho detto, sei sordo? E muoviti! Da quando c'è un cliente che aspetta c'è un limite di tempo? Ridami i soldi, ridameli, forza, dammeli! Vado da un'altra parte, scemo, ladro! Cretino, mi hai fatto perdere un ottimo cliente! Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. Mi ha cambiato un po' interiormente, facendomi sviluppare una certa empatia verso il prossimo e togliendomi certe costruzioni mentali. Dall'incavo delle sue braccia mi guardano gli occhi e il ciuccio di una bellissima bambina. Avrà 2 anni al massimo, come Margherita, mia figlia minore. Storie di apparizioni e di incredibili epifanie d'amore in una puntata tutta dedicata all'avarizia. È Linee d'ombra, è Radio 24, io sono Matteo Caccia, ma soprattutto questo è il programma che vi racconta storie legate ai vizi capitali, i vecchi vizi capitali e i nuovi vizi capitali. Oggi è una giornata particolare, è una giornata di festa, è ahimè l'ultima giornata di festa di queste feste natalizie, quindi io vi auguro una buona epifania se siete credenti o semplicemente un'ultima giornata di festa se non lo siete. Noi oggi abbiamo deciso di dedicare questa puntata all'avarizia perché perché la Befana, più che l'epifania, la Befana è considerata questa vecchina non proprio, insomma un po' rancorosa, non proprio generosa, che ti porta al carbone se hai fatto il cattivo. Siamo partiti da qui per costruire questa puntata semplicemente come tema di lancio, ma in realtà le storie che vi racconteremo raccontano di avarizia mancata, in qualche modo di una forma di generosità e soprattutto di apparizioni, di epifanie. Avremo anche un esperto, il nostro esperto teologo che amiamo moltissimo, che ormai chiamiamo ogni volta che c'è in ballo una questione legata a un vizio o a un peccato capitale che prende le forme dalla tradizione cristiana. Insomma, cerchiamo di capire da dove arriva, lo facciamo con lui e capiremo con lui anche che cosa vuol dire Epifania, che sì, certo vuol dire apparizione, ma cercheremo di capire nella tradizione cattolica e biblica da dove arriva con precisione. Poi faremo quello che facciamo tutti i giorni, cioè vi racconteremo delle storie. Una di queste storie sarà la storia veramente incredibile di un uomo e una donna che si incontrano in un contesto sicuramente poco umano, perché stiamo parlando del contesto della seconda guerra mondiale, dei campi di prigionia, dei lager nazisti, e quest'uomo e questa donna si innamorano e poi la storia li porta ad allontanarsi l'uno dall'altra. Ed è per questo che parlavo poco fa di epifanie amorose, perché a distanza di anni, in una sorta di davvero incredibile puzzle di cose che si mettono insieme, quest'uomo e questa donna a distanza di moltissimi anni si rincontrano. È una storia che abbiamo letto sul New York Times ed è veramente una storia meravigliosa, siamo felicissimi di raccontarvela. Cercheremo anche di capire, magari lo faremo proprio con il nostro esperto teologo, da dove arriva l'immagine della vecchina, cioè della Befana, che rappresenta da sempre il giorno dell'Epifania, che rappresenta da sempre il 6 gennaio. C'è una parte, credo, più laica che ha a che fare con l'immagine del vecchio anno che se ne sta andando, cioè L'anziana donna rappresenta l'anno vecchio, ormai passato, che se ne va e che quindi di cui ci vogliamo liberare, e in teoria i doni che porta sono l'augurio e l'auspicio probabilmente per il raccolto, essendo un riferimento pagano, l'auspicio per un raccolto positivo e per un anno buono. Credo invece che la tradizione cristiana, questo mi raccontavano quando ero piccino, vuole che la Befana abbia a che fare proprio con l'Epifania di Gesù ai Re Magi e che la storia voglia che i Re Magi, cercando la capanna dove si trovano Giuseppe, Maria, Gesù Cristo, ovviamente anche Bue e l'asinello, che non possono mai mancare nell'iconografia del presepe, insomma, raggiungendo la capanna, chiedono a un'anziana signora un'indicazione. Lei indica loro la strada, loro la invitano ad andare insieme a loro a incontrare il Cristo, ma lei decide di non andare. Poi si pente e quindi raccoglie dei piccoli regali e va di porta in porta, bussando alle porte, donando questi regali a tutti i bambini, sperando in qualche modo di trovare Gesù Cristo tra uno di loro. Ma cercheremo di capire meglio, perché poi le storie, quando passano di mano in mano, fanno quell'effetto lì. Già solo quando le raccontiamo noi, le nostre storie, se le raccontiamo oggi e tra 5 anni, sono molto diverse quella di oggi da quella che raccontiamo in futuro. Figuriamoci le storie che passano di bocca in bocca negli anni, nei secoli e nei millenni ancora di più. Cerchiamo di capirne un pochettino di più avanti nella nostra puntata. Però noi partiamo come sembra, cioè partiamo da una storia, ed è sì una storia di apparizione, una storia che ci ha mandato Luca e che sentiremo più tardi. Per raccontarla vi chiedo di spostarvi da dove siete, non fisicamente, semplicemente con la vostra mente o con la vostra pancia, ovunque risuoni questa storia. Ci pensiamo noi a spostarvi, anche se siete in auto, anche se siete a casa, se siete satolli sul divano o se ci state ascoltando in podcast. Ovunque voi siate, venite con noi, andiamo a Marrakech e davvero sì, lì abbiamo un'apparizione. Dalla terrazza la vista è notevole. La città rossa, Marrakech, si stende, bella, vitale e odorosa, tutta intorno a noi. Mi dicono che non si possono costruire edifici più alti della moschea principale. L'imprevedibile parallelismo con il Duomo di Milano mi strappa un sorriso. Un vento berbero porta con sé musiche, aromi, un gran vociare e, strano, nuvole di pioggia. Il cameriere appoggia i tagliane sulla grande tovaglia brunita. Torno a sedermi. Scoperchio la terracotta smaltata. Il profumo complesso e insolito dello stufato di agnello con prugne e mandorle è delizioso. Attendo che anche gli altri 7 commensali siano serviti. Ed eccoci. Un brindisi, chiede Giacomo, alla location più bella che un'asta del fantacalcio abbia mai avuto. Iniziamo a mangiare, l'agnello è delizioso. Affondiamo le forchette e ci diamo dentro con il pane per raccogliere il sughetto speziato. Chiediamo altro pane. Chi di noi comprerà Ronaldo, ci domandiamo, e poi ancora pane. Fuori il crepuscolo, le prime luci che si accendono e la calura diurna cede il passo a una fresca serata. Non abbiamo più fame, ma ugualmente ordiniamo diversi dolci da dividere, giusto per assaggiare qualcosa. È notte, paghiamo relativamente poco, ringraziamo e scendiamo giù per le scale. Per strada schiviamo decine di motociclette e qualche enorme bicicletta a 3 ruote carica di roba. Un tizio con uno specchio di 2 metri in bicicletta. Procediamo a coppie, conversando di calcio e commentando gli articoli esposti nel labirintico souk. Lampade di Aladino, rame finto, olio di argan, targhe, borse di pelle, tazzine che si afferrano con pollice e indice per non scottarsi, e vestiti tipici. Penso alle mie bambine. Domani comprerò loro qualcosa di blu o di nero. Stiamo puntando l'incredibile piazza centrale di Marrakech per chiudere in bellezza. I cunicoli diventano strade un po' più ampie, a destra e a sinistra muri intonacati e qualche mattone a vista. Le luci fredde creano strane ombre blu sul selciato. Siamo andati a Marrakech io e i miei amici perché volevamo una location un po' particolare per l'asta del nostro fantacalcio, di quello che facciamo assieme, ecco, in queste circostanze. E vabbè, era un'occasione anche per evadere, mettiamola così. Siamo andati in un posto un po' esotico, ecco, per una volta. Ed è lì che mi appare. La vedo seduta per terra con le gambe incrociate e dignitose. Ha un bambino in braccio, addormentato. È interamente velata. Rivolge la testa al figlio. Nella mia testa decido che la donna si chiama Malika. Malika non si lamenta, non chiede, non tende la mano, non si muove. Il contrasto è lacerante. Una gigantesca bolla d'aria sul fondo di un mare rimestato dalla tempesta, e mi fa male, molto male. Mi blocco, la cena si agita nel mio stomaco e avvampo. Gli altri procedono, forse non l'hanno vista. Non devo perdermi in questo posto, deglutisco e continuo a camminare. Ho già visto la miseria. Quei due non hanno niente di speciale, dico a me stesso. 10 passi, sto meglio, altre 10, una svolta e non ci credo. Ancora lei. Un'altra Malika, ma il figlio è più grande. Stranamente grande per stare in braccio alla madre, avrà 5-6 anni. È notte, può darsi che stia davvero dormendo. Mi preoccupo perché non ha nemmeno un lenzuolo. Se ne sta lì così, inerme, debole. Avrà fame? Accantono disperatamente il pensiero, respiro affannosamente, mi bruciano gli occhi, mi sale un'ondata di nausea. Il mio corpo mi chiama alla fuga. Deglutisco acido e seguo i miei baldanzosi compagni. Sono ragazzi meravigliosi, ma oggi sembrano meno coinvolti. Oppure chi lo sa, elaborano meglio di me, non lo so. Penso a Malika, la regina del marketing. Quello senza dubbio non è il figlio, è un figurante, dai. Fanno così per qualche ora, poi tornano a casa pieni di soldi. Magari si fermano anche a comprarsi una pizza. Sì, è così. Forse non dormiva nemmeno. Improvvisamente un amico, Giulio, svolta a sinistra, Michele lo segue. Svoltano anche gli altri. Sono terrorizzato. Ti prego, fa che non la veda ancora. Il cuore mi rimbomba nelle orecchie e mi sostengo all'angolo dell'edificio. Faccio pochi metri e la vedo. Malika è lì. Dall'incavo delle sue braccia mi guardano gli occhi e il ciuccio di una bellissima bambina, avrà 2 anni al massimo. Come Margherita, mia figlia minore. Ti prego, penso. Tesoro, ti prego, non piangere. La piccola fa un verso da niente, lontanissimo dall'essere straziante. Potrebbe significare qualunque cosa. Mi traglio quel vicolo con tutte le spiegazioni positive che mi vengono in testa. Un dentino, un taglietto sul dito. Si alza come un'immensa coltre di polvere. E io continuo a immaginare il vestito che le tira sul fianco, un occhietto irritato, un brutto sogno. Ma poi, niente, finisco le idee, le munizioni, la polvere si deposita. E lei, illesa nonostante tutti i miei sforzi, avanza in quell'ombra barcollando. Fissa il mio stomaco e si rivolge alla mia anima. La bambina piange perché ha fame. Questo incontro per me è stato importante perché mi ha costretto a confrontarmi con me stesso per come avevo fino a questo momento sentito la sofferenza altrui. In questo caso magari è stato un fatto piccolo di nessuna importanza, magari avevo già visto situazioni di disagio, ma non so, si vede che alcune cose ti colgono all'improvviso e ha cambiato qualcosa dentro di me. Quando sono tornato già lì ero abbastanza, come dire, sofferente, ma quando sono tornato ho confidato a mia moglie questa esperienza, avevo le lacrime agli occhi perché avevo pensato che quella bambina potesse essere mia figlia. Forse, chi lo sa, certe cose ti presentano il conto quando pare a loro. All'improvviso le gambe non mi reggono. Dopo qualche passo devo fermarmi. Sono fradicio, nauseato. Mi volto e lei, Malika, è ancora lì. Non si è mossa. Non ha sfruttato il mio stato febbrile. Non ha proteso la bambina per giustiziarmi. E io vorrei solo tornare indietro. Prendere in braccio la piccola per dirle che ora ci sono io e che andrà tutto bene. Tendere una mano alla madre e tornare tutti e tre al ristorante. Al cameriere direi: questa è come se fosse mia figlia, questa è davvero sua madre, ci porti due piatti per favore. Poi prenderei un fazzoletto e con la mano mi trapasserei lo stomaco, ne estrarrei quelle 20-30 tonnellate di cibo superfluo che ho ingerito nei miei 37 anni di vita e riempirei i loro piatti. Dal filo che pende dalla mia camicia ricaverei le centinaia di lenzuola e vestiti che ho buttato. Pianterei la banconota che darà vita all'albero dei miei sprechi e dalle lacrime che ho versato per cose stupide. Ringraziamo anche il nostro Luca Micheli per aver scelto Ben Harper con questo Welcome to the Cruel World per chiudere la bellissima storia che ci ha mandato Luca. Quando le storie ci arrivano, qui vi faccio un attimo di narrazione dall'interno della redazione, quando ci arrivano le storie qui a linee d'ombra @radio24.it, e quello che chiediamo è appunto una storia che sia un episodio della vostra vita, esattamente come quello di Luca. Eravamo lì, stavamo facendo quella cosa lì, è successa questa cosa qua e poi è finita in questo modo. Quando ci arrivano le storie, noi le cerchiamo di catalogarle, no? Di dare loro un indirizzo rispetto ai vizi, i vecchi e i nuovi. E quando ci è arrivata abbiamo pensato: beh, Luca ci racconta una micro storia di avarizia, di fatto è come se lui ci dicesse: in quell'occasione avrei voluto fare qualcosa e non l'ho fatta. Poi in realtà abbiamo capito che è molto di più questa storia, per cui sì, è vero che in una puntata che è una puntata dell'Epifania, essendo oggi il giorno dell'Epifania, ed abbiamo deciso di dedicarla all'avarizia per via del carbone della Befana, in realtà appunto è un espediente, è un modo per raccontare una storia come questa che ci racconta molto di più, ci racconta in qualche modo anche di un'Epifania. E questa Epifania, questo incontro di Luca nella notte di Marrakech, in qualche modo, come avete sentito, lo ha profondamente cambiato. Pronto, ciao Luca, buongiorno. Pronto, ciao Matteo. Grazie mille per la storia che ci hai mandato e grazie per averci fatto riflettere su una cosa molto precisa, o perlomeno a me è capitato di riflettere su questa cosa. Tu lo dici chiaramente: quante volte ci capita di incontrare una persona bisognosa, un senza tetto, qualcuno che chiede la carità agli angoli delle strade? Eppure, tu dici a un certo punto, forse certe cose ti presentano il conto quando pare a loro. Per cui la prima cosa che mi viene da chiederti è: secondo te cos'è successo quella notte lì a Marrakech? Perché quella donna, quelle donne che hai incontrato coi figli, hanno avuto questo effetto su di te? Beh, che cosa è successo? Diciamo che potrebbe essere stata, come dire, già colma la mia misura interiore in qualche modo, quindi quell'episodio poi mi ha scatenato delle cose. Può essere anche che nel frattempo, essendo diventato papà, abbia sviluppato una sensibilità per... Tu hai due figli, infatti. Luca, giusto? Sì, ho due bambine, e una più o meno ha 2 anni circa, come l'ultima bambina che ho citato nel, okay, nel racconto. Okay. E, quindi sì, può essere che si sia rotto qualcosa dentro di me in quel preciso momento e non in mille altri, quindi ecco, può essere successo lì perché magari ero lontano da casa, perché magari ripensavo alla mia famiglia, figlia, e certo, a quanto dovremmo sentirci fortunati, ecco, entro certi termini, quindi a volte creiamo uno strato, una barriera per proteggerci da certe sensazioni, ecco, che tu quando torni a casa dici, racconti a tua moglie praticamente in lacrime. Che cosa ti ha detto tua moglie quando tu le hai ricostruito questa situazione? Era all'inizio un attimo preoccupata, perché non mi ha visto spesso, diciamo, rotto in qualche misura. Mm-hmm. Mi ha confortato, mi ha detto, ma non preoccuparti, le nostre bambine stanno bene, eccetera. E ha capito che ero abbastanza sconvolto dalla cosa, e quindi ne abbiamo parlato a lungo, di quanto appunto dovremmo sentirci fortunati per non doverci preoccupare, mm-hmm, di certe cose. Però ha capito, insomma, che era successo qualcosa di più che non la solita, insomma, la commozione che si può provare, che spesso è temporanea, per strada, all'angolo, insomma, un incrocio. Lo ha capito, certo, chiaramente. Sì, lo ha capito e mi ha stimolato a, come dire, coltivare questa cosa che era successa dentro di me, e poi dopo anche, ecco, per merito suo. Proprio questo, Luca, avere coltivato quella cosa, cioè fattivamente, praticamente, tu hai cambiato, senti di aver cambiato in qualche modo la tua vita dopo quella sera? In qualche misura sì, adesso non vorrei dire che, come dire, la mia vita sia ribaltata, però anche perché non ho ancora trovato il modo di, come dire, indirizzare questa energia, okay, o questo nuovo sentimento. Succedeva quando questa storia? Quest'autunno? No, tantissimo tempo fa, a settembre. Ok, ok. Quindi diciamo che sono ancora in qualche misura accidioso, nel senso che non ho ancora agito per fare chissà quali grossi cambiamenti, però penso che mi abbia reso più aperto, più in ascolto verso le altre persone, verso tutti i nostri, diciamo, fratelli e sorelle che ci sono nel mondo e per la sofferenza altrui. Quindi credo che almeno sentire sia il primo passo, ecco, per poi cercare di fare qualcosa e magari chissà aiutare. Farsi venire un'idea, magari anche non mi arrogo nessuna, diciamo, capacità particolare di aiutare. No, è chiarissimo, è chiarissimo. Però, insomma, semplicemente stai cercando un modo per incanalare questa energia, come l'hai chiamata tu. Mm-hmm. L'ultima cosa prima di salutarti, voi eravate lì a fare un'asta del fantacalcio, cioè la cosa, diciamo, la cornice è ancora più divertente. Ma vi capita spesso? Allora, spieghiamo cos'è un'asta del fantacalcio per chi non lo sapesse. Ok, è un'occasione, diciamo, attraverso cui un gruppo di persone si riunisce e come un'asta, mettiamola così, mm-hmm, si mettono all'asta i giocatori delle squadre di Serie A. Per cui ciascuno compone una formazione fatta, esatto, di diversi calciatori. Ma cosa avete? Un bonus? Avete, che so io, 100 da spendere? Sì, c'è un budget, diciamo così, di 500 fanta dollari o quello, okay, che sia. Io tra l'altro sono scarsissimo in questo gioco, però lo faccio più per stare con gli amici che per altro. Uh-huh. Io tanto di calcio in generale non capisco granché. Perfetto. Però è divertente, e quindi ci troviamo, non so, uno dice Cristiano Ronaldo, uno e dice fa io ho 50, 100, okay, eccetera, okay, eccetera. Okay. E alla fine si compone la tua squadra e poi giochi. Solo che di solito lo si fa magari in pizzeria. Voi avete deciso di andare a Marrakech. Sì, non perché siamo tutti, come dire, ricchi imprenditori, ma semplicemente perché era un'occasione anche per coltivare la nostra splendida amicizia, quindi tutti insieme troviamo un contesto diverso. Luca, ti ringrazio davvero per la chiacchierata e per la storia che ci hai mandato, e insomma, fai l'ultimo buon giorno di vacanze e in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi per tutto. Ciao, grazie mille. Grazie. Ciao. Ciao. Sentiamo le borse in diretta e poi torniamo qui a Linea d'Ombra. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... Allora, com'è là fuori? 10 gradi sotto zero e una terribile bufera. Neve e ghiaccio dappertutto. Tempo perfetto. Ok, GLC, questo è il nostro momento. Sfida l'inverno con la trazione integrale 4MATIC del nuovo GLC. Oggi hai 4.000 euro di ecoincentivo Mercedes-Benz su tutta la gamma GLC. Se permuti la tua auto da Euro 0 a Euro 5 e con MyDrive Pass scegli la soluzione finanziaria più adatta alle tue esigenze. Scopri di più su mercedesbenz.it. Nel 2002 mi sono diplomato. Nel 2006 ho aperto un bar. Nel 2010 mi sono sposato. Nel 2011 è nata mia figlia. Nel 2015 sono stato arrestato per omicidio. Nel 2016 sono stato condannato a 30 anni. Nel 2018 sono stato assolto con formula piena. Troppo spesso consideriamo mostro un innocente. Il Riformista è l'unico giornale che combatte ogni giorno contro manette facili e giustizialismo. Il Riformista, il quotidiano uguale a nessuno. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Stiamo raccontando in questa puntata delle storie di epifanie, di apparizioni o di riapparizioni, quindi non so se si dica riepifanie. E la storia che stiamo per raccontarvi è una storia davvero splendida. È una storia che abbiamo trovato su New York Times, si intitola Lovers in Auschwitz. È una storia che parla sì di campi di concentramento, ma fortunatamente li affronta da una parte, da un angolino che è un pochettino più leggero e un pochettino più speranzoso riguardo a quei luoghi. La prima volta che si incontrarono queste due persone nel 1943 davanti al forno crematorio di Auschwitz, David Wisnia si rese conto che Ellen Spitzer non era una prigioniera come tutti. Zippy la chiamavano così. Lei era pulita ed era molto in ordine. E poi una donna che era fuori dal quartiere delle donne, che parlava con un prigioniero maschio, era qualcosa di molto insolito. Prima che lui, che David se ne accorgesse, si ritrovarono da soli e anche in quel luogo disumano lasciarono che i loro sentimenti affiorassero. Una settimana dopo decisero di rivedersi. Diventarono amanti, incontrandosi in un nascondiglio ad un'ora prestabilita circa una volta al mese. David all'epoca aveva 17 anni, Zippy ne aveva 25. Sapevano che i loro incontri non sarebbero durati. Intorno a loro la morte era ovunque. Tuttavia pianificarono un futuro insieme, una volta fuori da Auschwitz. Sapevano che sarebbero stati separati, ma avevano un piano. Dopo che i combattimenti erano finiti, volevano riunirsi. Ci sono voluti 72 anni. L'epifania è di fatto una manifestazione, è un'apparizione inaspettata che giunge all'improvviso, e nella giornata dell'epifania, la seconda storia di oggi, è l'incredibile storia di David Wisnia e Zippy. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Sono stati i figli e i nipoti di David a costringerlo a parlare del suo passato. Nel 2015 ha pubblicato un libro di memorie che si chiama Una voce, due vite, da prigioniero di Auschwitz al 101esimo soldato aviotrasportato. Solo allora la sua famiglia venne a sapere di Zippy, la sua ragazza di Auschwitz. Zippy fu tra le prime donne ebree ad arrivare ad Auschwitz nel marzo del 1942. Arrivò dalla Slovacchia, dove era stata la prima donna della regione a fare un apprendistato come artista grafico. Al lager arrivò con altre 2000 donne. Inizialmente le fu assegnato un estenuante lavoro di demolizione, ma attraverso la sua capacità di parlare tedesco, la sua capacità di progettazione grafica e la pura fortuna, si assicurò un lavoro d'ufficio. Quando incontrò David, lavorava, era responsabile dell'organizzazione di documenti nazisti. Mano a mano che le sue responsabilità crescevano, divenne libera di spostarsi all'interno del campo e poteva addirittura farsi la doccia regolarmente. Ma Zippy non è mai stata una collaboratrice nazista o una capo, un detenuto assegnato a sorvegliare gli altri prigionieri. No. Lei usò piuttosto la sua posizione per aiutare gli altri detenuti. Manipolò documenti e riassegnò i prigionieri a diversi incarichi per salvarli. David invece fu assegnato all'unità del cadavere quando arrivò. Il suo compito era quello di raccogliere i corpi dei prigionieri che si lanciavano contro la recinzione elettrificata che circondava il campo. Ma nel giro di pochi mesi si venne a sapere che era un cantante di grande talento. Quindi cominciò a cantare regolarmente per le guardie naziste e gli fu assegnato un nuovo lavoro in un edificio che le SS chiamavano sauna. Il suo impiego era quello di disinfettare i vestiti dei nuovi arrivati con gli stessi carichi di Zyklon B usati per uccidere i prigionieri nelle camere a gas. La loro relazione durò diversi mesi, fino a quando, in un pomeriggio del 1944, si resero conto che probabilmente non si sarebbero più visti. I nazisti stavano crollando e avevano intenzione di distruggere le prove dei loro crimini. Mentre i crematori venivano demoliti all'interno del campo, si mormorava che le truppe sovietiche stavano avanzando. Sembrava che la guerra potesse finire davvero. Durante il loro ultimo appuntamento si fecero una promessa. Si sarebbero incontrati a Varsavia al termine della guerra. David poi fu trasferito nel campo di concentramento di Dachau nel dicembre del 44. Poco dopo, durante una marcia della morte, da Dachau si imbatté in una pala, un badile. Lo usò per colpire una guardia dell'SS e tentare la fuga. Il giorno seguente, mentre si nascondeva in un fienile, sentì che si stavano avvicinando le truppe sovietiche. Corse verso i carri armati sperando di mettersi in salvo, ma invece dei russi erano le truppe americane. Non riusciva a credere alla sua fortuna. Da quando aveva 10 anni aveva sognato di cantare lirica a New York. Prima della guerra aveva scritto una lettera addirittura al presidente Franklin Delano Roosevelt, chiedendogli un visto per poter studiare musica in America. Le due sorelle di sua madre erano emigrate nel Bronx negli anni 30 e aveva memorizzato il loro indirizzo. Durante il suo periodo ad Auschwitz, quell'indirizzo era diventato una specie di preghiera per lui. Le truppe lo adottarono dopo aver ascoltato la sua storia. Fu allora che decise. L'Europa sarebbe stato il suo passato. Sono diventato americano al 110%, racconta oggi. I'm free. I'm free. I'm free. I'm free. And I'm waiting for you to follow me. I told you what it takes to reach the highest high. You'd laugh and say nothing's that simple. You've been told many times before, Messiah's pointed to the door. No one had the guts to leave the temple. I'm free. I'm free. And freedom tastes of reality. Zippy invece fu tra le ultime a lasciare Auschwitz. Fu inviata al campo femminile di Ravensbrück e in un sottocampo di Malkow prima di essere evacuata in un'altra marcia della morte. Lei e un'amica fuggirono dalla marcia rimuovendo la striscia rossa che avevano sulle uniformi e confondendosi con la popolazione locale in fuga. Mentre l'armata rossa avanzava e i nazisti si arrendevano nel caos, raggiunse dapprima Bratislava, dove non trovò più nessun parente. Raggiunse poi il primo accampamento di ebrei sfollati nella zona americana della Germania occupata, che nella primavera del 45 ospitò almeno 4.000 sopravvissuti. Si chiamava Feldafing. Poco dopo il suo arrivo a Feldafing, nel settembre del 1945, Zippy sposò Erwin Tikauer, un ufficiale di sicurezza delle Nazioni Unite. Dopo la guerra, la signora Tikauer e suo marito dedicarono anni della loro vita a cause umanitarie. Durante i loro viaggi, Zippy ha continuato a imparare nuove lingue e a usare le sue capacità progettuali per aiutare le popolazioni bisognose, in particolare le donne in gravidanza e le neomamme. La sua esistenza non è rimasta confinata alla sua esperienza di sopravvissuto all'Olocausto. Alla fine i Tikauer si trasferirono in America, prima a Austin, in Texas, e poi si trasferirono a New York, dove il dottor Tikauer divenne professore di bioingegneria alla New York University. David, invece, nel 47, ad un matrimonio, incontrò la sua futura moglie, Hope. 5 anni dopo, la coppia si trasferì a Filadelfia e lui diventò, come voleva, un cantante lirico. Anni dopo essersi sistemato con sua moglie a Levittown, un amico gli disse che Zippy era viva ed era a New York. David, che aveva raccontato a sua moglie della sua ex fidanzata, pensava che sarebbe stata un'occasione per ricongiungersi. L'amico allora organizzò un incontro. David guidò per più di 2 ore da Levittown a Manhattan e attese nella hall di un hotel di fronte a Central Park, ma Zippy non si presentò all'appuntamento. Lui però non si arrese. Anni dopo, nel 2016, decise di riprovare a contattare Zippy. Aveva condiviso la storia con la sua famiglia e suo figlio, che nel frattempo era diventato un rabbino in una sinagoga della Riforma a Princeton, nel New Jersey. E lui spinse il padre a riprovarci. Nell'agosto del 2016, David si fece accompagnare da due nipoti. Rimase in silenzio durante gran parte del viaggio, in auto, da Levittown a Manhattan. Non sapeva cosa aspettarsi. Erano passati 72 anni dall'ultima volta che aveva visto Zippy. Quando arrivarono nel suo appartamento, trovarono Zippy sdraiata in un letto d'ospedale circondata da scaffali pieni di libri. Era sola da quando suo marito era morto nel 1996. Non avevano mai avuto figli. Aveva un aiutante che si prendeva cura di lei e il telefono era diventato la sua linfa vitale per il mondo. All'inizio non lo riconobbe, ma quando l'uomo si avvicinò, racconta la nipote, quando il nonno andò da lei fu un'epifania. I suoi occhi si spalancarono quasi come se la vita le fosse tornata. Improvvisamente ritrovarono le parole. David le raccontò dei suoi figli, Zippy del suo lavoro umanitario dopo la guerra e di suo marito. Si meravigliò dell'inglese perfetto di lui. «Mio Dio», ha detto, «non avrei mai pensato che ci saremmo rivisti, e tantomeno a New York». L'incontro durò circa 2 ore. Poi, al momento dei saluti, Zippy gli disse «ti stavo aspettando». «Lo aveva amato», gli disse. «Anche io», disse lui a lei. «I forgot, oh, oh, I say it for the first time, oh, oh, I forgot, oh, oh, I say it again». Ai, saudade, o abi sabe, mano, no aware. Bollywood and kamikaze, Nintendo to Atari. Oompa Loompa says we can't forget, but you forgot. Oh, oh, I said it for the first time. Oh, oh, I can't be what I'm not. I said come vi dicevo, questa bellissima storia l'abbiamo letta in un articolo del New York Times che si intitola Lovers in Auschwitz. Ora sentiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra, storie dei nuovi vizi capitali. E non so se ve l'ho già detto o non so se ve ne siete accorti, ma oggi è il giorno della Befana, insomma è l'ultimo giorno di festa, per cui un pochettino con un po' di malinconia nel cuore ci approcciamo a ricominciare le nostre vite lavorative, ma è uno splendido 2020 e sarà un anno magnifico per tutti noi all'ascolto e tutti noi ai microfoni, ne sono sicuro. Vi dicevo però, è il giorno della Befana che in realtà si chiama tecnicamente Epifania. Abbiamo raccontato storie che hanno a che fare con apparizione, con manifestazioni meravigliose che arrivano anche a distanza di molti molti anni, ma vorremmo saperne un pochettino di più. E quando si tratta di argomenti prettamente religiosi, noi abbiamo ormai il nostro esperto del cuore che chiamiamo ogni volta. Ogni volta io e Anita ci guardiamo e diciamo, ma chiamiamo assolutamente il professor Grossi. Lui è docente di etica alla Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, il professor Stefano Grossi. Professor Grossi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. E buona Epifania, si dice buona Epifania? Sì. Beh, sì, non è proprio fra i saluti più usati o fra gli auguri più usati. Però, vabbè, no, noi ce lo scambiamo, visto che l'abbiamo chiamata, professore, proprio per provare a capire meglio da dove arriva questa festa e perché. Io in apertura ho raccontato una storia che mi avevano raccontato anni fa, per cui la Befana aveva a che fare col viaggio dei Re Magi, che è una signora anziana a cui loro chiedono un'indicazione e lei gli indica la via della capanna di Betlemme, ma non so se è esattamente questa. Diciamo la verità. Allora, la festa dell'Epifania. Festa dell'Epifania ha una storia lunga, non ve la faccio tutta, ma anche per alcune chiese era la festa del Natale, cioè il Natale si celebrava nell'Epifania. Okay. Poi ovviamente le tradizioni liturgiche si sono differenziate e progressivamente nella Chiesa, poi la Chiesa cristiana, è venuta fuori l'idea delle tre epifanie, cioè le tre manifestazioni che Gesù fa agli uomini. Mm-hmm. La prima è questa dei magi, è l'epifania rivolta a tutte le genti, a coloro che non sono appartenenti al popolo di Israele. Poi c'è la manifestazione al Giordano, al battesimo di Giovanni Battista, che è la manifestazione ad Israele, quella è la domenica subito dopo l'Epifania, e infine la terza manifestazione è quella del miracolo alle nozze di Cana, che è la manifestazione ai suoi discepoli. Allora, di solito questa è la sequenza in cui anche nella liturgia cattolica si seguono dalla domenica o dal 6 gennaio dell'Epifania alla domenica seguente battesimo del Signore alla quella seguente, dove il Vangelo di solito è quello delle nozze di Cana. Quindi, professor Grossi, in sostanza sono tre momenti in cui Gesù si manifesta a tre, diciamo, gruppi di persone diverse. I Re Magi rappresentano tutto il mondo, dico bene? Esatto, i Re Magi, da questo punto di vista, anche nel Vangelo di Matteo, che è l'unico che ne parla, rappresenta il fatto che tutte le genti sono invitate, chiamate a cogliere la presenza di Dio attraverso Gesù di Nazareth. Ok, quindi da lì, diciamo, quindi Epifania sta per appunto manifestazione, apparizione. La definizione corretta è manifestazione? Manifestazione, sì. E da lì, professore, da lì alla Befana, cioè da lì ad una vecchia con una scopa, come ci arriviamo? Ma qui sono tradizioni popolari che si mischiano, credo. A quello che ricordo io, tradizione della Befana, che poi si trova in diverse parti sia dell'Italia sia anche dell'Europa, era una tradizione indipendente. Okay. Dopodiché poi le trame popolari le uniscono e le unificano, ma questo è normale, la stessa vicenda dei Magi è soggetta a questa dimensione di fede popolare attraverso i Vangeli apocrifi. Pensi, il nome dei tre magi, quelli tradizionali, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, vengono proprio da uno di questi Vangeli apocrifi che ci raccontano molto più estesamente la vita, le opere, le persone di questi tre re magi. Qui c'è proprio un passaggio molto interessante per certi versi tra la narrazione evangelica e poi altri racconti, e anche come questi poi si sono, diciamo così, condensati nella storia dell'arte, soprattutto negli affreschi. Certo. Ma professore, un'ultima cosa, poi la saluto, ma e qui chiedo chiaramente al teologo, la Chiesa come vive questa commistione di sacro e profano, che non riguarda solo l'Epifania, no? Ma riguarda anche il Natale, per cui appunto Gesù bambino da una parte, Babbo Natale dall'altra, come dire, lo accetta, lo abbraccia, se ne frega? Ma allora, diciamo che normalmente nella storia della Chiesa c'è questa attenzione di cogliere anche in altre manifestazioni, non solo in quelle esclusivamente cristiane, un segno, una possibilità di essere in qualche modo già un segno, un anticipo della verità cristiana. E quindi non ci sono particolari tensioni. Okay.

La chiudiamo qui questa puntata dell'Epifania di Linee d'Ombra. Vi ricordo che se per caso magari oggi era la prima volta che ci sentivate perché avevate orari diversi dal solito e alle 15 non vi capitava di ascoltare la radio, potete partecipare, potete diventare un pezzo di questo programma, e per farlo basta che condividiate una vostra storia legata a uno dei vizi capitali, una o due pagine che racconti qualcosa di voi. La mandate a lineedombra@radio24.it. Se volete invece riascoltare questa o le altre puntate di Linee d'Ombra, ascoltatevi i podcast dal nostro sito radio24.it nella sezione podcast, oppure dalla nostra app, l'app di Radio 24. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche la puntata di oggi e do la linea al GR, e ci sentiamo domani puntuali alle 15 per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!